Ciao a tutte e tutti, questa è la nuova trasmissione di Uru, i suoni, musica e notizie dall'Africa. Vi ricordiamo che la diretta di Uru è il venerdì alle 9:30, la replica è la domenica alle 10 e il lunedì alle 14. Chiaramente sempre su Radio Wombat, da cui ci state ascoltando in streaming. Al sito wombat.noblox.org, dallo stesso sito potete scaricare i podcast sia di Uru sia di tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Ricordiamo anche i profili, i social, Twitter, Radio Wombat FI, Facebook, radio-wombat-firenze e anche la mail per suggerimenti, critiche, complimenti. Quello che volete è postawombat@insiberia.net. Oggi andiamo in Congo, in particolare la Repubblica Democratica del Congo. Questo grandissimo paese si affaccia sull'oceano, anche che prende il nome da questo sempre grandissimo fiume, nel senso di lunghezza, grandissimo fiume, appunto il fiume Congo, e che consta appunto il bacino del fiume Congo, di questa della Repubblica Democratica del Congo, quella con capitale Kinshasa, e un altro stato un po' più piccolo, anzi molto più piccolo, che ha come capitale Brazzaville, che viene comunemente denominato come Congo Brazzaville, di cui la capitale appunto è proprio nella riva opposta a quella di Kinshasa, cioè il fiume Congo, che divide sostanzialmente le due capitali, i due paesi. È un paese abbastanza tribolato, ha una storia anche particolare dal punto di vista coloniale, nel senso che è stato per molti anni, possedimento personale del re del Belgio, del reame belga, che poi successivamente, nel momento in cui non era più produttivo o comunque occorrevano fare dei notevoli investimenti per continuare a sfruttare le risorse del Congo, fu venduto allo Stato belga e da allora cominciò tutta una serie di processi, fra cui anche chiaramente processi di liberazione, che sono culminati all'inizio degli anni 60 con la vittoria da parte del movimento capeggiato di cui la figura principale era Lumumba, e un governo, quello costituito da Lumumba, che cominciò subito a mettere in pratica i programmi di cui si era dato e di cui aveva e di cui, per i quali i congolesi l'avevano sostenuto. I programmi erano neppure tanto rivoluzionari, sostanzialmente voleva ridare il Congo ai congolesi, e proprio per questo fu assassinato pochissimi mesi dopo l'insediamento da presidente. E poi da allora ha subito un paese martoriato sostanzialmente, ma che però ha una scena musicale molto, molto vasta e variegata, una scena musicale di cui il prodotto, diciamo così, tra virgolette, più conosciuto è il soukous, o la rumba congolese, detta anche lingala o Congo music, lingala perché appunto è la lingua principale di quest'area dell'Africa. E la rumba africana, cioè il soukous, trae le proprie origini dalla contaminazione della musica congolese tradizionale con sonorità provenienti dalla musica caraibica e soprattutto da Cuba. Diciamo un ritorno, ecco, moltissimi milioni di schiavi sono stati prelevati dal Congo o dal bacino del Congo e portati in America, e poi a sua volta c'è stato un ritorno di quelle erano le sonorità di questi schiavi che l'avevano riportate a Cuba o comunque nei paesi antillani, e quindi appunto il soukous prende le proprie origini dalla contaminazione appunto della musica congolese tradizionale con queste sonorità. Un genere di fusione musicale fu sperimentato già negli anni 30 e 40 da musicisti congolesi dell'area di Kinshasa, che allora appunto si chiamava Leopoldville, che era appunto il nome del re belga proprietario proprio del Congo, e di Brazzaville, che è appunto la capitale dell'altra parte, diciamo, del Congo. E questi artisti cantavano generalmente in lingua lingala, e appunto da qui il Sucus a volte viene chiamato anche Lingala, oppure più raramente in Swahili, Chiluba o Kikongo. Lo Swahili, vi ricordiamo, l'abbiamo già detto precedentemente, è la lingua ufficiale di Uganda, Kenya e Tanzania, e è la lingua africana per eccellenza. Infatti anche la stessa parola Uhuru è lingua Swahili, e quindi appunto cominciò questo viaggio, questo affermarsi del Sucus. Fra gli anni 40 e 50 il Sucus divenne estremamente popolare in tutta l'Africa, e uno dei pionieri del genere, Antoine Colosi, noto anche come Papa Vendo, divenne abbastanza famoso già da esibirsi in tour già in Nord America o in Europa. Abbiamo detto Papa Vendo perché appunto questo prefisso, diciamo, questo nome Papa ricorre molto spesso nei nomi on stage, diciamo, dei musicisti congolesi. E appunto il primo pezzo che vi facciamo ascoltare è di Papa Wemba, in questo caso. Chiaramente il nome è un nome stranissimo per noi, un nome Julius, lo sto leggendo perché Julius Shungu Vembadio Kikumba, nato il 14 giugno 1949 nella regione del Kasai, che è appunto la regione a nord. E appunto Papa Wemba è conosciuto come il re, diciamo, comunque il primo cantante, autore, compositore in questo caso, più famoso e più conosciuto, e lo diciamo che ha fatto conoscere il Sucus in Congo e all'estero. Come si trasferì fin da piccolo nella capitale e da lì iniziò la sua avventura musicale. Facciamo sentire il primo pezzo di questa trasmissione, Papa Wemba, che si intitola Overdose. Yamoto bayoko pango samonoko ilambananga yo mabeba sale lumbananga yo soki kelasi asusi nabimi mwanambo yawera pisanga parnanga ya bona. Mina overdose. Ata kolo kasa bako waka yeye patala kanenge epo kweaka mama kasi outa obo yanga yeye ata efo ete kwe panenge na koma pona moto moko Mabe asala asenga timpe polibisi Bato mokili balingi kokonetre Kaka kore konetre awanase Luka liboso Ba moto amina rere Soki bo mekinga molai Lobi nantango na kokola Boko zuwa ntango ya kosale langali litate Bolingweza li moto eko pelisa karara Lolenge ya koninyo sote Tonga e kota na kalobi Serge Mayembo, le privilège, Abraza la verte, Alain Tambatamba, Zoukla. Sempre Uru, sempre su Radio Wombat, gli appuntamenti della settimana, della prossima settimana. Uno è ora, tra pochi minuti, tra una mezz'oretta, inizia Capitalism the Musical al Centro Sociale Autogestito Extemers. Magari un po' di corsa ci potete arrivare in tempo. Domani, sempre all'Extemers, un concerto, in questo caso organizzato da Dio Drone insieme a Collettivo Nuovi Rumori, con Tim Borrato, il Passede e Marlon Brando. Non è propriamente un genere, propriamente soltanto punk hardcore, che è solitamente quello organizzato da questi collettivi, ma diciamo anche con più sonorità, un po' più ambient, via dicendo. C'è la presentazione di Radio Wombat, grandi, al Forte Prenestina, al Centro Sociale Forte Prenestina a Roma, alle 19.30, e la presentazione sarà data in diretta su Radio Onda Rossa, di cui il sito in cui la potete ascoltare in streaming, la presentazione della nostra radio, della radio che state attualmente sentendo, su www.ondarossa.info. Domenica prossima alla Polveriera, il consueto mercato contadini artigianale che si tiene tutti i mesi, la seconda domenica del mese. Mentre invece lunedì c'è un corteo contro il G7, G7 dei ministri degli interni e degli esteri, a Lucca, nel pomeriggio. Martedì alla Polveriera, nell'ambito delle iniziative del warm-up per l'ACM Meeting, c'è cioè l'ultimo appuntamento, il numero 4, è un Citizen Forum, un orario un po' insolito, diciamo così, alle 20, anche perché la Polveriera solitamente chiude abbastanza presto. E questo almeno fino a venerdì prossimo. Questo ve lo diciamo dopo. Adesso sentiamo uno dei pionieri del soukous congolese, Tabu Ley Rochereau, grande compositore, molto fertile visto che ha fatto circa 250 album, nato proprio nella Repubblica Democratica del Congo, cresciuto all'epoca in cui e ha cominciato a suonare e cantare quando si chiamava Zaire, cioè sotto la dittatura di Mobutu, tant'è che lui andò in esilio ed è ritornato nella Repubblica Democratica del Congo solo dopo che Mobutu aveva lasciato il Congo. Di lui ci sentiamo Sara. Ricordiamo che il soukous non è solo un genere musicale, ma anche una danza. Ricordiamo che il soukous non è soltanto un genere musicale, ma è appunto una danza, un ballo, e molto spesso i pezzi sono lunghetti. In questo caso Sara è circa 10-11 minuti, ve lo facciamo ascoltare. La lelo to esengo bobala ni lelo yo poko mi na bandeko mehebo bipai na bipai pamyo yo ekoli bandeko ya mwasi pako mi bandeko ya mobali koyo ya mobali pako mi nde baboti ya mwasi. Divorce, divorce, eloko ya nkanda omeli mayambi ote okoka kosamba divorce te moto bolinganaki bokomi kotalisa na misapi na miso e omona wapi divorce basala fedi baimprime bakarte invitation batinda na bato bamela bapina basepela mpo bato mibale bakabwani. Sanza e pusani Kotala si mate poko mwana motote Nga mote me baruka singara fungola Sara Kolinga moto kolinga Helo kwelengi Soki boboya ni lelo eko milika mbonde ampahasie Bae bazara kisima ya mobali pako miko Nina mwasi balingaka Bande kona bae balandi mwasi pako mina mobali ene mi Kofinga kotonga eko timboka Mwasi ako mikolo baloba mobali oyo alesa kinga ite Alatisa kinga ite Mobali mobali ako mipilela lela bipa ibi Malo bakama esili na monoko partu aza ko samba Ako mikopele la labato mwasi nanga Zala kimwa kata singa e Osara, osara Zako pepa yo Keneke kasiko baka rongo te Pona yo ebale zara kana suka te asara Libala na kolinga na zela mipale Libala nefa mibolinga zali likambo ya mitema Bandeko pahasie Boswani nandako kobi misalipana teko ya kokoma likambo ya fami Kobongi se kokota soni lolendo pe kanda na ba mambre ya fami Kolinga moto kolinga na heloko elengi Soki boboya ni lelo yo eko mili kambonde ya mpahasie Bae bazara kisima ya mobali pako miko ina mwasi balingaka Bande kona bae balanda mwasi pako mina mobali ene Kofinga kotanga eko timboka Mwasi ako mikolo baloba mobali oyo alesa kinga ite Alatisa kinga ite Mobali mobali ako mibilela lela bipa ibiso malobaka ma esili na monoko bato aza kosamba akomi bilobela na bato mwasi na nga azalaki bwakata nsinga ye osala osala mi pepe na za kope payo keneke kasi kwa karongo te pana yo ebale zalaka na suka te asara libala na kolinga na nzela mibale libala nde fami bolingo ezali likambo ya mitema bande kompasie boswani na ndako kobimisa libanda te koya kokoma likambo ya fami kobongiseka kota soli lolendo mpe kanda na bamambre ya fami omona wapi divorce basala feti baimprime bakata invitation bakinda na bato bamela bapina balamba basepela mpo bato mibale bakabwa divorce terre. Tabu Lei Rochereau, il pezzo si intitolava Sara, Rochereau appunto un cognome francese, perché il Congo, al di là delle lingue autoctone, in Congo si parla francese e non a caso Kinshasa è la città francofona più grande del mondo, d'altronde Lagos è la città anglofona più grande del mondo, più abitata del mondo. E una notizia, come sempre, colonialismo si accompagna al genocidio o viceversa, quindi niente, abbiamo fatto le strade nuove, abbiamo portato l'istruzione, la nostra istruzione, abbiamo portato la cura per le malattie, no, genocidi. Più di un secolo dopo il genocidio, a lungo taciuto, delle popolazioni Herero e Nama della Namibia, in questo caso, i discendenti e le vittime hanno chiamato il governo tedesco, allora potenza coloniale, a rispondere in tribunale delle atrocità commesse contro i loro avi. Ricordiamo che la Germania non aveva grandi possedimenti coloniali, la Namibia comunque era uno di essi, l'altro era il Togo e anche la Tanzania, tutti persi dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la sconfitta della Germania nella Prima Guerra Mondiale, ma comunque hanno fatto in tempo, tra virgolette, a uccidere, a sterminare o a tentare di sterminare più tribù, in questo caso i Nama e gli Herero. A gennaio le due tribù hanno intentato una class action chiedendo un risarcimento e di essere inclusi nei negoziati in corso da 2 anni tra i governi di Germania e Namibia per la stesura di una dichiarazione congiunta sulle stragi. Il processo si è iniziato il 16 marzo, quindi meno di un mese fa a New York, e la prossima udienza sarà il 21 luglio. Finora Berlino ha sempre rifiutato di pagare riparazioni dirette, sostenendo che milioni di euro dati in aiuti allo sviluppo dopo l'indipendenza della Namibia siano andati a beneficio di tutti i namibiani. Ora, al di là dell'esiguità dell'ammontare, diciamo, anche dire sono andati a beneficio di tutti i namibiani è una sciocchezza totale. Questo perché tra il 1885 e il 1903 i coloni tedeschi si impadronirono di terra, bestiame e di altri mezzi di sussistenza della gente del posto, innescando la rivolta, chiaramente, degli Herero, che il 12 gennaio 1904, che in Namibia è un giorno ricordato sempre, uccisero 123 civili tedeschi. La risposta fu la sanguinosa battaglia di Waterberg nell'agosto dello stesso anno, quando circa 80.000 Herero furono costretti alla fuga con donne e bambini verso il Botswana. Le truppe tedesche li inseguirono nel deserto del Kalahari, avvelenando l'acqua dei pochi pozzi rimasti, e solo 15.000 di 80.000 di loro sopravvissero. Pochi mesi dopo, ad ottobre dello stesso anno, cioè del 1904, il generale von Trotha ordinò che gli Herero fossero sterminati. E la più piccola tribù Nama affrontò un destino simile. Circa 10.000 di loro furono uccisi mentre cercavano di ribellarsi ai tedeschi. Sulle banconote namibiane, tra l'altro, oltre alla figura del primo presidente della Namibia e diciamo del leader della SWAPO, Southwest African People Organization, cioè il movimento di liberazione della Namibia, in questo caso da regime dell'apartheid sudafricano, oltre appunto all'effigie su una banconota di Sam Nujoma, il leader della SWAPO, nelle altre ci sono le effigie proprio in una del Nama, che è il leader, diciamo, in quel caso, in quel periodo, della tribù Nama che si ribellò ai tedeschi. E pochi mesi dopo, appunto, l'azione legale, inoltre di chi sostiene le autorità coloniali abbiano chiuso un occhio sugli stupri di donne e ragazze Herero e Nama da parte dei coloni e sull'uso del lavoro forzato. Le due tribù denunciano anche l'esistenza di campi di sterminio e di esperimenti scientifici sulla popolazione considerata una razza inferiore. Stiamo parlando dell'inizio del Novecento e quindi diciamo una cosa che poi si è ripetuta tristemente e appunto gli Herero e i Nama stanno portando avanti questa battaglia per vedere riconosciuti i loro diritti e soprattutto per vedere riconosciuta la loro memoria. Tra l'altro gli Herero sono un popolo particolare, nel senso che anche dai loro costumi, dai loro vestiti quotidiani, si vedono queste specialmente le donne, questi enormi fiocconi sul capo e questi vestiti larghi, tipo fine 800, queste gonne lunghe, mentre invece in Ama, al contrario, sono anche sommariamente sono particolari. Per esempio, Nelson Mandela era proveniente da un'etnia Nama, e chi se lo ricorda, c'ha una tratti somaci veramente simpatici, insomma. E l'etnia Nama è quella che vive nel deserto di Kalahari, un deserto a confine che occupa ambedue le nazioni, Botswana e la Namibia, confinanti. Adesso ascoltiamo un pezzo delle Yondo Sisters, che avevano iniziato come coriste di Tabu Ley Rochereau, il cantante del pezzo passato prima. Poi una delle sorelle ha smesso e l'altra invece si è dedicata, tenendo lo stesso nome, Yondo Sister, a una carriera solista che è stata molto fruttuosa e che l'ha portata anche un po' in giro per l'Europa ed il mondo. Di lei, in questo caso con il gruppo Planet, cioè Yondo Sister e il gruppo Planet, ascoltiamo il pezzo Bilanga. Yes. trasmissione durante Uru parliamo d'Etiopia, proprio perché è il cuore di tenebra italiano, con un'Italia che non ha mai fatto i conti con il suo passato coloniale. Di quel periodo ho fatto eccezione per l'opera precisa, puntuale. Di Del Boca non si vuole parlare, non si è mai parlato, e quando se ne parla si lo si fa con indulgenza. Sembra che il nostro sia stato un colonialismo buono, rispettoso, non è così. Una tragedia per le popolazioni locali, ma anche per le popolazioni locali e per tutti sostanzialmente. E ora su questa tragedia si apre un ulteriore squarcio dopo alcuni libri, appunto di Del Boca, alcuni film. I fantasmi dell'impero, un libro uscito per Sellerio, un romanzo in questo caso, ma comunque un romanzo, il racconto si dipana in un contesto ben preciso, cioè ricostruito con metodicità. E il libro è un lavoro a sei mani, cioè tre autori, Cosentino, Dodaro e Panella, con Panella che, essendo un funzionario ministeriale, ha scovò nelle carte, quello era il Ministero dell'Africa Italiana, la storia di un'indagine svolta in Etiopia da Vincenzo Bernardi, cioè un magistrato militare italiano. E da lì appunto è iniziata questa ricerca da parte dei tre autori e sfociata nel libro. Il periodo è quello successivo alla conquista da parte delle forze fasciste, le forze armate italiane dell'impero requisito. Il magistrato deve indagare sul capitano Corvo e sulle sue esecuzioni sommarie a Bardar. È un racconto, ma le esecuzioni sommarie ci sono state e ci sono state a Bardar, che sarebbero alla base di una rivolta, come al solito, chiaramente, nella regione del Gojam. Bernardi inizia così un viaggio nel terrore, una sorta di cuore di tenebra di libro di Conrad. Bernardi assisterà a esecuzioni sommarie, battaglie tra militari italiani e partigiani etiopi e violenze sessuali sulle giovani ragazze etiope, ma soprattutto e anche, diciamo, assisterà alle meschine lotte di potere tra le autorità italiane, quelle tra il vice re Rodolfo Graziani e il maresciallo Badoglio, i due più sanguinari, diciamo, militari italiani in Etiopia. E per conquistarsi il controllo della colonia, uno spaccato di una guerra senza fine, lotte di potere in Etiopia erano il riflesso di quelle che erano l'Italia. Una guerra di cui però si è persa la memoria e questo libro contribuisce a restituircela per come è stato veramente il colonialismo italiano. È un racconto, ma appunto si basa su dati precisi, su luoghi precisi, su date precise. E Badoglio e Graziani sono stati veramente dei figli di puttana. Adesso passiamo a un gruppo il cui leader Luciana, che è un uomo, fin dal 77 ha attraversato tutto il Congo con la sua musica, creando anche vari e diversi gruppi, partendo da Sasa Musica, cioè che in Swahili vuol dire e ora musica, fino a suonare come spalla accanto, prima o dopo, di Viva la Musica, che era il gruppo di Papa Wemba che abbiamo ascoltato prima. Adesso vi facciamo ascoltare del suo gruppo, cioè il più importante, diciamo, La Nouvelle Génération de la République, Ma Chérie. La nouvelle génération, olé! Longwa na zeladi. Chérie, on va boire un coup. Oui, mon chéri. On va trinquer tous les deux. Oui, mon amour. Vivons jus de fruits. Non, pas question. Prenons deux demi. Non, ça va pas la tête. Que veux-tu? J'ai mes champagne. Que veux-tu? J'ai mes champagne. Eh, hey, messieurs, deux demi, s'il vous plaît. Thank you. Mais c'est quoi ça? C'est bon pas. C'est bon père. C'est bon pas. C'est bon père. C'est bon pas. C'est bon père. C'est bon pas. Une belle coupe de cheveux. C'est au salon de coiffure. Sonia et à Paris. Boum. Au parapara. Timba. Ricordiamo che state ascoltando Uru, musica, suoni e notizie dal continente africano, e ci ascoltate da wombat.noblogs.org, il sito dove potete vedere il palinsesto con tutte le trasmissioni e dal menu podcast potete scegliere tutte le trasmissioni che volete riascoltare. Le nostre repliche, vi ricordo, sono: se vi siete perso un pezzo di puntata o volete riascoltarla, la domenica mattina alle 10 e il lunedì alle 14. Vi ridico anche i nostri social: Twitter, twitter.com/radiowombatfi, Facebook radio-wombat-firenze, la mail postawombat@insiberia.net. E questa è una storia della Sierra Leone, ma potrebbe essere benissimo ambientata in Congo. Si parla di diamanti, Blue Diamond appunto, e la Sierra Leone e gli altri paesi, diciamo, i confinanti, e che hanno visto le guerre sanguinose da questo punto di vista, ma anche il Congo, sono pieni di questi diamanti, e che molto spesso, anzi sempre, scatenano guerre e distruzioni. In questo caso si tratta di un diamante grezzo di 709 carati, rinvenuto appunto nel Cono, il principale distretto diamantifero della Sierra Leone, da un pastore evangelico della zona. E il pastore ha pensato bene di venderlo subito, e vabbè, al di là della cupidigia del pastore evangelico, nulla di particolarmente eclatante. Il governo ha fissato una tassa di $5,000 statunitensi nella compravendita dei diamanti, e in quel momento, insomma, e quindi di fatto legalizzando questa compravendita. Però questo diamante divino, come è stato ribattezzato, perché appunto venduto da questo pastore evangelico, c'è stato subito dei grossi problemi. In molti sostengono infatti che questa pietra non sia stata trovata in realtà da Padre Momo, ma che lui si sia prestato a fare il gioco di qualche compagnia mineraria che non voleva esporsi in prima persona, perché magari non aveva tutte le scienze, oppure che già in passato ha fatto affari poco limpidi da questo punto di vista. E quindi, ma le rilevazioni, la ridda, diciamo, di voci si sono amplificate, ma le rivelazioni del quotidiano Global Times hanno aperto, diciamo, hanno dato la studio a questo vaso di Pandora. Cioè, il giornale ha citato una fonte anonima al Ministero delle Miniere. In realtà il diamante apparterebbe allo Stato, perché il religioso l'avrebbe operato illegalmente. Lo stesso giornale ha riportato un magnate libanese che opera nel Cono e un rivenditore di Israele. Ricordiamo che c'è questa grossa connessione sul traffico di diamanti, in particolare tra Israele e il Belgio, in questo caso Anversa, proprio appunto, o viceversa, proprio perché Anversa era il porto, diciamo, la città coloniale del Belgio, quella da cui partivano le navi e cui arrivavano le navi che avevano depredato il Congo e anche le regioni vicine. E quindi appunto è stato riportato che questo magnate libanese e un rivenditore di Israele si stanno accapigliando, diciamo, dietro le quinte, senza scudere i colpi, per riuscire a accaparrarci la pietra. Ci sono stati tentativi di corruzione ai capi tribali dell'area in cui è stato trovato il diamante, perché formalmente apparterrebbe alla tribù che abita in quell'area. Ma intanto lo Stato della Sierra Leone ha bloccato il diamante e lo costituisce una cassaforte all'interno della banca centrale. Il pubblico, tra l'altro, lo può anche vedere fino al 5 aprile. In attesa della lotta e per accaparrarsi, lo decreti il vincitore. Questo, diciamo, quello che c'è, il retroscena che solitamente ci sono dietro appunto il commercio, dietro il diamante, dietro le pubblicità che vediamo alla televisione. In questo caso il retroscena è abbastanza incruento, diciamo, sono battaglie senza esclusione di colpi tra magnati, tra i soldi, ma molto spesso, e forse probabilmente anche in questo caso, dietro ci stanno uccisioni, assassini, così come abbiamo potuto vedere molto spesso, insomma, rispetto a queste storie. Adesso ascoltiamo un pezzo dei Tu Zaina, un gruppo che praticamente fa da cerniera tra il sukus più classico e più attaccato alle tradizioni congolesi e quello più cittadino, diciamo, suonato a Kinshasa principalmente, che è diventato una danza ed è molto più veloce, appunto, per favorire la danza degli ascoltatori. Di loro ci ascoltiamo Sanga Mbele Mbele. Sanga Mbele Mbele, tomo fate buona munande chua. Batolo, batolo, batumele la salam, sala kwa buona. Oyanani, kapopoli po kamina mina kamoya. Sanga Mbele Mbele, tomo fate buona munande chua. Batolo, batolo, batumele la salam, sana kwa buona. Oyanani, kapopoli po kamina mina kamoya. Sanga Mbele Mbele, mchezo wa kwetu, mchezo wa vilole ya bei. Kati si sanga mbele mbele, mchezo wa mikelenge, mchezo wa kaponjo. Uwa! Fate buona monande chua. Batolo, batolo, batumale la salam, sala kwa buona. Oyonani, kapopoli po kamina mina kamoya. Sanga Mbele Mbele, tomo fate buona monande chua. Batolo, batolo, batumale la salam, sala kwa buona. Oyonani, kapopoli po kamina mina kamoya. Sanga Mbele Mbele, Sanga Mbele Mbele, tomo fate buona monande chua. Batolo, batolo, batumale la salam, sana kwa buona. Oyonani, kapopoli po kamina mina kamoya. Sokola, sokola, mama, olole, olole. Sokola, sokola, mama, olole. Sanga Mbele Mbele, Sanga Mbele Mbele, tumufate bwana munande chwa. Batolo, batolo, batumalela, salam sana kwa bwana. Oyo nani kapopoli po kamina mina kamoya. Sokola, sokola, mama, olole, olole. Sokola, sokola, mama, olole. Che venerdì prossimo Uru salterà alla diretta perché è venerdì prima di Pasqua e ci prendiamo una sera di festa. E ci potrete sentire la domenica alle 10 e il lunedì alle 14, cioè nelle nostre usuali repliche. Manderemo la terza puntata, se non l'avete ascoltata già dal podcast, che sarà sull'Algeria. E quindi niente, vi salutiamo, ci sentiamo in diretta tra 15 giorni, altrimenti domenica e lunedì prossimi vi riascolterete la terza puntata, mentre questa, se ve la siete persa o la volete riascoltare, potete scaricare il podcast sempre da wombat.noblogs.org. Ciao a tutte e tutti.